679. Zuppa di limone. Questo dolce, che dalla sua provenienza giudicherei di origine francese, non è molto nelle mie grazie, nonostante ve lo descrivo nel caso non aveste di meglio a fare e vi trovaste le chiare a disposizione. Zucchero grammi 135, rossi d'uovo numero 2, chiare d'uovo numero 5, sugo di un grosso limone, acqua mezzo bicchiere, farina un cucchiaio scarso. Stemperate la farina con l'acqua, frullandola bene, versatela in una cazzaruola ed aggiungete il resto. Rimestate ogni cosa e ponete il composto al fuoco, rimuovendo continuamente il mestolo come si fa per la crema. Quando sarà condensato, passatelo dall'ostaccio. Se occorre, poi, versatene parte in un vassoio. Distendeteci sopra dei savoiardi o del pan di Spagna e col resto del composto copritelo. Servitela fredda. Può bastare per 4 o 5 persone.